4. Sugo di carne. La Romagna, che è a 2 passi dalla Toscana, avendo in tasca la crusca, chiama il sugo di carne brodo scuro, forse dal colore che tira il marrone. Questo sugo bisognerebbe vederlo fare da un bravo cuoco, ma spero vi riuscirà, se non squisito, discreto almeno con queste mie indicazioni. Coprite il fondo di una cazzaruola con fettine sottili di lardone o di carne secca, quest'ultima è da preferirsi, e sopra le medesime trinciate una grossa cipolla, una carota e una costola di sedano. Aggiungete qua e là qualche pezzetto di burro e sopra questi ingredienti distendete carne magra di manzo a pezzetti o a braccioline. Qualunque carne di manzo è buona, anzi, per meno spesa si suol prendere quella insanguinata del collo o altra più scadente che i macellari in Firenze chiamano parature. Aggiungete ritagli di carne di cucina, se ne avete, cotenne o altro, che tutto serve, purché sia roba buona. Condite con solo sale e 2 chiodi di garofani. E ponete la cazzaruola al fuoco senza mai toccarla. Quando vi giungerà al naso l'odore della cipolla bruciata, rivoltate la carne e quando la vedrete tutta rosolata per bene, anzi quasi nera, versate acqua fredda quanta ne sta in un piccolo ramaiuolo, replicando per 3 volte l'operazione di mano in mano che l'acqua va prosciugandosi. Per ultimo, se la quantità della carne fosse di grammi 500 circa, versate nella cazzaruola 1,5 litri di acqua calda, o ciò che meglio sarebbe un brodo di ossa spugnose, e fatelo bollire adagino per 5 o 6 ore di seguito, onde ristringere il sugo ed estrarre dalla carne tutta la sua sostanza. Passatelo poi per istaccio. E quando il suo grasso sarà rappreso, formando un grosso velo al di sopra, levatelo tutto per rendere il sugo meno grave allo stomaco. Questo sugo, conservandosi per diversi giorni, può servire a molti usi e con esso si possono fare dei buoni pasticci di maccheroni. I colli e le teste di pollo spezzate, uniti alla carne di manzo, daranno al sugo un sapore più grato. I resti della carne, benché dissugati, si possono utilizzare in famiglia facendo delle polpette.